ha ricordato Carla Passalacqua, non possiamo non dare la parola a una donna, e quindi la parola a Fragosti Pierangela, segretaria generale del Piemonte Orientale. Ah sì, scusa Paolo, vai da passare. Sì, vado, arrivo. Comincio con una riflessione, visto che questa fase congressuale del 2017 si cala in un contesto nazionale e internazionale denso di incognite e di problemi irrisolti. Da un lato abbiamo in Italia una crisi economica e sociale che morde ormai da quasi un decennio e che ci lascia crescita zero, occupazione in sofferenza, troppi giovani dal futuro incerto, povertà in aumento. Anche il quadro internazionale è segnato da profonda incertezza, da diffusi focolai di guerra e da squilibri profondi che fra l'altro provocano emigrazioni epocali di milioni di persone. La gente proprio ora è portata alla critica politica e anche alla critica sindacale. Questo deve essere uno stimolo per la CISL a bloccare queste critiche. Va riaffermato con forza che per noi, per la CISL e la FNP, la vera globalizzazione è quella del lavoro, dei diritti, delle libertà civili, della pacifica convivenza tra i popoli, della lotta alle disuguaglianze e alle discriminazioni. Penso che sia per i pensionati, sia per i cittadini, come CISL e come FNP, abbiamo aperti due obiettivi da affrontare e da perseguire con la necessaria forza e tenacia. Il primo è la ripresa della seconda fase prevista dall'accordo del 28 settembre del 2016 con il governo sulla previdenza. Il secondo attiene alle iniziative da mettere in campo per dare attuazione al progetto di legge di iniziativa popolare proposto dalla CISL dal titolo significativo per un fisco più equo e giusto. Le 500.000 firme raccolte non possono ammuffire in qualche cassetto del Parlamento. Positivo il REI che il Senato ha approvato il 9 marzo per l'istituzione del reddito di inclusione attiva, dopo il SIA, per promuovere il reinserimento attivo nella società e nel mondo del lavoro di coloro che ne sono esclusi. Decolla il piano nazionale contro la povertà, ma non basta. Tocca una platea di 1.700.000 su 4,5 di povertà assoluta. Sono stati stanziati 2 miliardi sui 7 richiesti dall'alleanza contro la povertà. In ognuna di queste conquiste c'è il lavoro continuo della CISL e dell'FNP, lavoro che deve essere naturalmente proseguito. Il tema della sanità è importante per tutti, ma in primo luogo per gli anziani, pensionati, disabili e malati gravi, che ne sono i principali fruitori. La FNP del Piemonte Orientale si è mossa per denunciare le inaccettabili liste di attesa per visite specialistiche ed accertamenti diagnostici. Ha promosso una raccolta di firme con un significativo consenso, circa 10.000 firme. E la Regione, proprio in queste settimane, ha riconosciuto che le liste d'attesa sono un vero problema. Problema della non autosufficienza. Il sindacato ha ribadito inaccettabile i tagli ai fondi sociali e proprio il 29 maggio, marzo, durante la riunione del tavolo nazionale per la non autosufficienza, è stato redatto un comunicato congiunto di CGIL, CISL e UIL e del sindacato dei pensionati, nel quale si conferma che il ministro Poletti ha ribadito l'impegno del governo e delle regioni a riallocare i 50 milioni di euro recentemente tagliati al fondo non autosufficienza e riportato così a 500 milioni. Rilevo l'importanza e l'urgenza di arrivare al più presto ad una contrattazione sociale estesa e ben organizzata. E qui la necessità di sincronia UST, USR, FNP territoriale, regionale, nazionale e di una formazione adeguata dei responsabili. La FNP regionale ha già avviato una formazione sulla contrattazione per collaboratori già con esperienza e anche per i nuovi. Voglio evidenziare il lavoro intenso dell'ANTEAS sul territorio del Piemonte orientale. I 150 volontari e volontarie si impegnano ogni giorno per far vivere la solidarietà nel concreto, con iniziative, progetti ed attività socialmente utili alla nostra comunità. Le RLS e l'ANTEAS devono saper costruire una progettualità comune, condivisa, perché insieme ci si può aprire di più al territorio e ai bisogni che esso presenta. È qui evidente l'importanza del lavoro di squadra e di uscire sul territorio. Naturalmente nel lavoro di squadra, per riuscire, nessuno deve costruire dei muri. E questo non è poco, non solo per il tesseramento, ma anche per la riuscita dei progetti. Per quanto riguarda i servizi, la FNP chiede di mettere nelle condizioni di collaborare i pensionati che sono appositamente formati o che lo saranno. E a questo proposito mi è piaciuta la proposta di Torino. Per quanto riguarda il CD proiettato ieri mattina, mi pare ottima la proposta di poterlo avere anche noi, per poterlo presentare al territorio. Al territorio comunque presenteremo sicuramente anche il libro di Passaracqua. Bravo, grazie.